Se tu sei dove sei, sai che tutto è inutile. Ma se tu non scendi mai, non è una storia semplice. Vengo a prenderti, dal tuo mondo scapperai, ma salgono già i brividi. Non è possibile. Vanità comincia a dare